Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva il mondo concentrando l'attenzione sugli animali non umani. È la puntata numero 552 e parleremo di cani, orsi, barriere, coralline e del collasso ecologico del pianeta. Cercheremo, nonostante tutto, di essere positivi e di indicare qualche via per migliorare lo stato delle cose. Anche stavolta Giuseppe Coco sceglierà le musiche e Gabriele Palloni il cibo giusto per illustrare una delle notizie della settimana. Nei giorni scorsi si è celebrata la giornata internazionale del cane. Sembra che in Italia circa 7 milioni di cani vivano in famiglie umane, un segno tangibile di una fratellanza di lunga data. Il nostro pensiero principale in questa occasione va però ai cani abbandonati, ai cani chiusi nei canili e anche a quei cani di famiglia che hanno subito, nella poca consapevolezza generale, una violenza genetica all'atto della selezione razziale. Una selezione da troppo tempo praticata e accettata come un'ovvietà. Abbiamo parlato più volte di questo tema in trasmissione, insistendo sulle malattie congenite, le menomazioni implicite nell'opera di selezione razziale, e invitiamo tutti gli amici dei cani a riflettere a fondo su questa cruciale questione, magari riascoltando i podcast della rubrica condotta per noi da Massimo Raviola. È tutto sul nostro sito restiamoanimali.it. Di fronte all'emergenza ecologica che viviamo arriva un'importante notizia che si presta a più chiavi di lettura. La notizia è che quest'anno l'Earth Overshoot Day, il giorno del sovrasfruttamento della Terra, arriva con 3 settimane e oltre di ritardo. È caduto infatti il 22 agosto scorso, mentre nel 19 era stato il 29 luglio. L'Overshoot Day indica il momento in cui la Terra esaurisce la propria capacità naturale di compensare l'estrazione di risorse e l'inquinamento causati dalle attività umane. I 24 giorni di ritardo rispetto al 2019 corrispondono a una riduzione del 9,3% dell'impronta ecologica dell'umanità. Questa è la parte buona della notizia. La parte meno buona è che questo decremento del sovrasfruttamento è dovuto esclusivamente all'effetto Covid, cioè all'interruzione dei trasporti e delle attività economiche decisi dalle autorità per frenare la pandemia da coronavirus. Scelte compiute in piena emergenza, quindi, di cui la riduzione dei consumi è stato un effetto secondario. A essere ottimisti si può dire che tutto ciò dimostra comunque la possibilità di cambiare lo stato delle cose. Frenare la distruzione in corso non è un'utopia irrealizzabile. È accaduto in emergenza, può accadere di nuovo se accettassimo d'essere all'interno di un'emergenza permanente di tipo ecologico. In quanto successo c'è anche un'indicazione pratica. Cambiamenti incisivi avvengono quando ci sono precise scelte politiche collettive. non rimesse, cioè all'iniziativa e alla buona volontà dei singoli. Questo è un tema cruciale per noi, a partire da una consapevolezza ribadita fra gli altri nei mesi scorsi dagli scienziati che studiano il cambiamento climatico, secondo i quali le scelte alimentari, per esempio, possono contribuire enormemente a ridurre l'impatto negativo delle attività economiche umane. Uno studio dell'Università di Oxford, per esempio, rileva che la produzione di carne, pesci, uova e latticini utilizza l'83% delle terre coltivate del mondo, ma fornisce solo il 37% delle proteine e il 18% delle calorie. La stessa ricerca dice che un'alimentazione senza cibi di origine animale avrebbe un potenziale di trasformazione tale da ridurre la superficie dei terreni coltivati del 76%, riuscendo comunque a nutrire il mondo. Il punto è, come si può arrivare a risultati di questo tipo? Qual è la via maestra per ridurre drasticamente gli allevamenti, la produzione, quindi il consumo di carne, latticini, pesce? Dobbiamo puntare su scelte collettive, con l'obiettivo per esempio di leggi che vietino gli allevamenti intensivi, o su una sommatoria di scelte individuali? È uno dei grandi dilemmi strategici del nostro tempo. Dalla rassegna stampa della settimana prendiamo una riflessione proprio sul dilemma prima citato. Qual è la priorità? L'azione politica collettiva o le scelte individuali? La rivista internazionale ha dedicato recentemente la sua copertina a un intervento di Abba Tilbeck, giornalista specializzato in questioni ambientali e autore di un libro in uscita, di cui il settimanale ha pubblicato un estratto. Tilbeck non ha dubbi e dice testualmente che dobbiamo fare i conti con il mito del consumatore verde, che ormai da 30 anni, sostiene il giornalista, confonde le acque del dibattito sulla sostenibilità. Tilbeck non sostiene che ridurre i propri consumi, i propri spostamenti e scegliere un'alimentazione a base vegetale sia del tutto inutile. Lui stesso fa capire cerca ogni giorno di ridurre la sua impronta ecologica. Ma il punto è che per contrastare una minaccia esistenziale, parole di Tilbeck, abbiamo bisogno di un governo attivo e di grandi piani. Esistono industrie potenti che fanno grandi profitti inquinando il pianeta e assumono agenzie di comunicazione per gettare sabbia negli occhi dei cittadini e dei politici, in modo da poter continuare ad agire indisturbati. In sostanza, esemplifichiamo noi, è giusto imitare Greta Thunberg e non prendere l'aereo per i propri spostamenti, ma è importante, anzi più importante, battersi per esempio contro la costruzione di un nuovo aeroporto, contro il finanziamento pubblico delle compagnie aeree, contro la concessione di sgravi fiscali sui carburanti. Certo, queste sono azioni che comportano conflitto, diversamente dalle scelte di consumo individuali, ed è per questo probabilmente che molti attivisti stentano ad assimilare tale verità. Dobbiamo riconoscere che la debolezza del movimento animalista è dovuta in buona parte a questi deficit di consapevolezza e di strategia. Come dice Tilbeck, se il governo decidesse di limitare gli allevamenti intensivi, parole sue, ridurremmo le emissioni di anidride carbonica come non potremo mai fare, limitandoci a promuovere gli hamburger vegani. Secondo Tilbeck, i predicatori della teoria secondo cui la tutela dell'ambiente e degli animali comincia da noi prestano troppo poca attenzione a queste cose. Do I ever wonder more than words can say heaven knows it's hard enough. enough to pray. Let me tell you something. There's a change in me. Even now you're gone. You'll always be my only love. Le cronache ecologiche del pianeta nelle ultime settimane sono state dominate dal disastro marittimo alle isole Maurizio, o Mauritius per gli anglofoni, nell'oceano Indiano. Il mercantile giapponese Wakashio, battente bandiera panamense, si è arenato sulla barriera corallina alla fine di luglio con il suo carico di 200 tonnellate di gasolio e 3.800 di olio combustibile. La nave è stata abbandonata dall'equipaggio, in parte svuotata del carico, ma infine si è spezzata, sversando in mare quantità enormi di inquinanti. Le circostanze dell'incidente sono ancora da chiarire e il comandante della nave è stato arrestato. Di certo, le autorità locali sono state prese alla sprovvista e hanno dimostrato di essere impreparate ad affrontare un disastro ecologico del genere. Basti dire che per contenere l'onda nera si è arrivati a utilizzare sacchi riempiti di capelli umani, capelli che pare abbiano un grande potere assorbente. Il danno ambientale però è enorme e gli animali colpiti numerosissimi. Nei giorni scorsi, poco lontano dal luogo dell'incidente, sono stati trovati a riva 13 delfini morti. Secondo Happy Kambule, responsabile per il clima e l'energia di Greenpeace, ancora una volta vediamo quali sono i rischi legati a un'economia basata sul petrolio. Non solo questa economia peggiora la crisi climatica, ma distrugge gli oceani e la biodiversità e minaccia le fonti di sussistenza di chi vive vicino alle lagune coralline. Questi ricorrenti incidenti marittimi, aggiungiamo noi, sono un effetto collaterale, troppo trascurato, dell'economia fossile che domina il pianeta. Restless nights, wrestling with life, trust me, I'd much rather be wrestling with you prescription drugs, but then I substitute for drowning in you. I'm drowning. Dreams devour me like the hours do. In Trentino continuano a fare notizia gli orsi. Partiamo con M49, il giovane orso che abbiamo scelto come personaggio dell'anno della trasmissione per il 2019. M49 l'anno scorso era riuscito ad evadere dal recinto di Casteller a Trento, dove era stato rinchiuso perché ritenuto pericoloso, scavalcando una recinzione alta più di 4 metri e una elettrificazione potentissima. Per mesi M49 era rimasto alla macchia, inseguito da un preannuncio di condanna a morte. E nei boschi trentini aveva passato l'inverno. M49 è stato poi catturato nuovamente nell'aprile scorso, riportato al Casteller e da lì è nuovamente fuggito a luglio. Inseguito dai forestali, M49 è riuscito pochi giorni fa a liberarsi anche del radio collare, legittimando così il nome con il quale è stato da alcuni battezzato, Papillon, come il famoso ergastolano fuggito dall'Isola del Diavolo. Il ministro Sergio Costa, che si è sempre opposto alle decisioni e alle ordinanze più estremiste del presidente della provincia di Trento, Maurizio Fogatti, ha commentato la notizia del radiocollare spezzato con un eloquente: quest'orso ormai è una leggenda. L'ultimo caso riguarda un altro giovane orso, M57, che ha avuto un corpo a corpo nei pressi di Andolo con un giovane carabiniere in vacanza, che ha riferito d'essere stato aggredito all'improvviso dall'animale. L'orso sarebbe spuntato all'improvviso nel buio e lo avrebbe aggredito, tentando di trascinarlo. Il giovane è riuscito a divincolarsi e ha riportato graffi e ferite alla schiena e alle gambe. M57 è stato catturato pressoché immediatamente e anche lui portato al recinto del Casteller. Il caso ripropone il tema della convivenza con gli orsi in Trentino, dove l'insofferenza delle istituzioni locali sull'onda delle lamentele di allevatori e agricoltori è da tempo ormai palese. La LAV, al cospetto della condotta della provincia di Trento con gli orsi arrestati e condannati a morte, chiede che le competenze siano avocate dal Ministero dell'Ambiente e che siano attuate finalmente le misure di prevenzione previste dal piano Life Ursus, misure che mirano a stabilire regole di convivenza fra umani e orsi. M57, dice il presidente della LAV Trentina, Simone Stefani, era già stato sorpreso da diverso tempo a rovistare nei cassonetti della spazzatura e a frequentare il centro abitato. Perché la provincia non si è dotata di cassonetti anti-orso? Perché non sono state messe in atto le azioni di dissuasione previste dal piano di conservazione dell'orso bruno sulle Alpi? Già, perché? Della settimana del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni è dedicata alle isole Maurizio. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edito da Newton Compton, e che tutte le sue ricette sono disponibili sul nostro sito restiamoanimali.it sotto l'etichetta Il pasto gentile. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Questa settimana ci regala uno sguardo a quella vacanza che non abbiamo fatto. Visto che alle Mauritius non ci possiamo andare, almeno gustiamo un piatto della cucina creola molto diffuso nella bellissima isola. Gli ingredienti per 4 persone per la salsa rugai sono 400 g di pomodori maturi, 2 cipollotti, uno spicchio di aglio, un pezzetto di radice di zenzero fresco, il succo di un lime, del timo fresco, un ciuffetto di prezzemolo tritato, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e del sale. Cipollotti e fateli scottare in una casseruola con mezzo bicchiere di acqua. Quando questa si sarà ritirata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine, l'aglio tritato finemente, la radice di zenzero grattugiata e fate rosolare qualche minuto. Aggiungete i pomodori tagliati a quadretti piccoli ed il timo. Aggiustate di sale e lasciate ritirare a fuoco lento con il coperchio. Dopo 10 minuti aggiungete il succo di lime e finite di cuocere per altri 5 minuti. Togliete dal fuoco e aggiungete il prezzemolo fresco tritato finemente. Servite la salsa con del riso basmati bianco o dei crostini di pane o per accompagnare delle crudite. Anche questa settimana vi proponiamo una lettura per l'estate. Il libro, recensito da Troglodita Tribe, è Quando eravamo prede di Carlo D'Amicis, edizione Minimum Fax. I cacciatori di quando eravamo prede sono cinici, violenti, macisti, ubriaconi. Vivono in una sorta di preistoria moderna all'interno di un bosco immenso e incontaminato. Hanno fucili, scorte alimentari e rifiuti portati dal fiume, spazzatura di una civiltà di cui si conosce poco o nulla e che sta oltre la linea, là dove nessuno di loro si spingerebbe mai. Portano nomi di animali questi cacciatori, si chiamano toro, alce, leone, formica, cagna, farfalla, nomi di cui si appropriano in relazione all'affinità che sentono di voler usurpare. Il loro cerchio è un pezzo di mondo in cui le donne vivono segregate su una collina e vengono utilizzate solo per la procreazione, un pezzo di mondo in cui si litiga, si uccide e ci si ubriaca continuamente. La caccia, gli spari di quei fucili che riescono a caricare grazie all'ingegno di Formica, che recupera i rottami della civiltà oltre la linea, ci fanno percepire con chiarezza la terribile potenza del genere umano che lascia l'odore putrido del suo decomporsi. Ma cosa può succedere se, nello spazio di una notte, tutti gli animali, ma proprio tutti, scompaiono? Un silenzio mortale domina la foresta. Non ci sono più le cavallette, i rospi, i ragni, i funghi, i cani, i bufali, le volpi. I cacciatori, che non hanno più nulla da uccidere, cominciano a soffrire la fame, fino a deperire, ad ammalarsi, ad avere paura. Le scorte alimentari finiscono. Non hanno mai coltivato né raccolto, perché uccidere era sempre stato molto più facile. All'improvviso si scopre che anche loro hanno dei concorrenti. Entrano allora sulla scena di questo strano mondo distopico dei topi mostruosi, voraci, dotati di 6 zampe e un solo grande occhio. Sono tantissimi e rosicchiano ogni cosa, anche gli immensi alberi che cadono sulle teste e sulle case dei cacciatori. la vita nel bosco diventa impossibile. I topi stanno prendendo sopravvento e i cacciatori capiscono di non essere più in grado di sopravvivere. I pochi superstiti cercheranno allora di oltrepassare la linea con il solo scopo di salvarsi. Ma solo quando un falco precede il ritorno degli animali ci si domanda: torneranno per finirli o perché finalmente si sono estinti? Un romanzo duro che lascia pochi spiragli e poca speranza e che disegna un mondo in cui, a causa della nostra incapacità, si interrompe drasticamente ogni possibile forma di convivenza con gli animali, ma che mette in guardia anche dalle facili semplificazioni di chi vede nell'abbandono della civiltà la soluzione di tutti i mali. Quando eravamo prede, di Carlo D'Amicis, Minimum Fax Edizioni, pagine 192, 14 euro. Ma ce n'è uno che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella di latte, tintarella di stelletto, tintarella di portali, e si tira in maniera, tintarella. Tintarella di luna, tintarella di latte, tintarella di stelletto, tintarella di portali, e si tira in maniera, tintarella. Tintarella di, tintarella di luna, tintarella di latte, tintarella di stelletto, tintarella di portali, e si tira in maniera, tintarella. Chiudiamo con una notizia che ci fa capire quanto possa essere drammatica la lotta per salvare gli animali selvatici dalla bramosia di profitto. Il governo del Botswana ha preso nei giorni scorsi la decisione di armare nuovamente i propri ranger incaricati di tutelare la fauna selvatica del paese. Nel 2018 era stato deciso di disarmarli per riservare all'esercito la facoltà di disporre ed eventualmente usare armi da fuoco. A seguito di questa decisione è però esploso il fenomeno del bracconaggio, costato la vita a 56 rinoceronti. Ora la marcia indietro, con tutto ciò che ne consegue. Occorre amaramente constatare che bisogna militarizzare i parchi per proteggere gli ultimi esemplari di specie animali che hanno la sfortuna di avere un alto valore monetario sui mercati illegali. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis, Giuseppe Coco, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. Per questa settimana è tutto, ci risentiamo fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.